the ground. He had a cold black hair and laser eyes. His pale white skin against the darkened skies seemed to say that the wind was at his call. Then a silence fell as the idol said nothing. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Radio Station. Allora sono 98.6 per la bassa veronese, zona dell'Elessinia, e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS le potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it. Rimanendo in tema di punk, ci spostiamo negli Stati Uniti con il garage dei primi anni 80, quando emersero formazioni abbastanza strane che recuperavano le sonorità degli anni 50 e 60, rileggendole in chiave moderna. Abbiamo appena ascoltato i Cramps, che dal disco Psychedelic Jungle del 1981 ci hanno fatto sentire la canzone Voodoo Doll, una band nota per le sue provocazioni sul palco che ha avuto un grande seguito di culto. Vedete qualche loro erede nelle band di oggi? Beh, è difficile trovare un erede, perché credo comunque che ogni artista sia originale a modo suo e può essere che qualcuno ci assomigli, scimmiotti, prenda spunto, si ispiri, però trovare un erede adesso così non credo, ecco. Sogni e spari è il titolo del vostro disco, quale il significato che avete voluto dare scegliendolo? Beh, sogni e spari è un'espressione molto semplice ma allo stesso tempo molto forte, in quanto viene diciamo messo a confronto il sogno e lo sparo. In questo disco ci sono varie canzoni che parlano appunto di situazioni magari sentimentali, storie d'amore, così, che nello stesso tempo vengono contrapposte diciamo a situazioni dure, sofferenti anche se vogliamo, ecco, quindi diciamo il bello del sogno contrapposto alla violenza dello sparo. Tra i garage rockers del periodo non mancavano le band al femminile, antesignane di quelle attuali che ancora suonano in tutto il mondo. Le Pandoras, sfortunata band guidata dalla compianta Paula Pierce, recuperava le sonorità garage psichedeliche riproponendo inizialmente fedeli a quegli anni. Dal disco It's About Time del 1984, la canzone He's Not Fair. Thank you. Molti pensano sempre che anni 80 voglia dire solo suoni sintetici, ma il riscoprire queste sonorità fa un po' capire che la scena indie nasce già in quegli anni. Che ne pensate? Infatti, uno pensa subito agli anni 80, l'elettronica, la disco music, anche un po' dopo della disco music, però l'esempio più eclatante è la fine degli anni 80, quando c'era un boom dell'elettronica. Arriva uno che si chiama Kurt Cobain, con i pantaloni stracciati, che rivoluziona il mondo, quindi sì, la scena indie già da lì parte. Oltre ad aver suonato al Sound Vito, avete condiviso il palco con altre band della nostra zona. Come vi trovate con loro e se c'è collaborazione tra di voi? Sì, collaborazione c'è, abbiamo tanti amici, abbiamo fatto tante serate insieme con altri gruppi. Sì, la collaborazione deve esserci per forza, perché sì, a volte è anche uno scambio di favori. E allora chiudiamo la seconda parte con i Barracudas, formazione anglo-canadese dalle breve notorietà. Hanno saputo riportare lo spirito della surf music in quegli anni unita al power pop. Dal disco Dropout with the Barracudas e il brano I Can't Pretend. Noi ci risentiamo dopo la pubblicità con i Radio Station, che ci faranno sentire i 6 brani dal loro disco Sogni e Spari.